ti sto scrivendo da quel posto dove andavamo quando tutto era nostro. Spero tu non l'abbia mai rimosso. Quanti tiri fatti a più non posso, quanti giri di freestyle ad ogni costo. Eravamo i più ricchi di sto mondo, anche con il conto sempre in rosso. Ma adesso fermati a rifletterci, noi come Walter e Jesse, caratteri troppo diversi, ma con gli stessi identici interessi. Non siamo mai scesi a compromessi, a costo di rimanere soli. Li abbiamo fatti sempre tutti fessi, noi mai stati schiavi, neanche padroni. Noi coi pantaloni larghi, chi ci guardava poi rideva. Poi dopo neanche un paio d'anni, in centro tutti col New Era, noi che spezzavamo polvol a suon di rime din don. Poi di botta sopra quel palco, io che ero al mic, tu eri in console. In questa city non ci sto, cantavamo, ma in fondo era tutto ciò che avevamo. L'uno per l'altro era il portafortuna, io ero lo scudo, tu l'armatura. Neanche le donne ci hanno mai diviso, tranne una. Ed eravamo sempre in due, adesso ognuno è sulle sue. E a me così com'è non piace per niente. Ed eravamo sempre in due, mani su quei 1002. Ma ora che non ci sei non ci si diverte. Ed eravamo sempre in due, adesso ognuno è sulle sue. E a me così com'è non piace per niente. Ed eravamo sempre in due, mani su quei 1002. Ma ora che non ci sei non ci si diverte. È chiedere troppo e fare un passo indietro. In console almeno avevo il mondo in mano. Tu guerriero a difesa dell'impero, io alle spalle, tu e a mezzo metro. Mai avrei pensato che quel nostro live fosse l'ultimo davvero. È stato un fulmine incontrarla, ciel sereno. Ero al pian terreno, ho visto nero, poi l'azzurro, il rosso fuoco e ancora nero. Realizzo oggi che l'amore dà e l'amore toglie. Biggie risuonava more money, more problems. E invece no, lei con gli occhi di chi uccide mo. Prigioniero come un gioco al Commodore. Non mi perdonerò e risuonerò quel disco ricordandoci che tutto ha senso insieme, pure a rompere i giocattoli. Gli ostacoli sono flebili, quindi li si prende e si accantona. Strappiamo questa pagina, dai, cambio la storia come un igno de rua. Strada comanda, fogli di carta, rime di scorta. Neanche le donne ci ha mai diviso, no, neanche stavolta. Neanche stavolta. Ed eravamo sempre in due, adesso ognuno è sulle sue. E a me così com'è non piace per niente. Ed eravamo sempre in due, mani su quei 1002. Ma ora che non ci sei non ci si diverte. Ed eravamo sempre in due, adesso ognuno è sulle sue. E a me così com'è non piace per niente. Ed eravamo sempre in due, mani su quei 1002. Ma ora che non ci sei non ci si diverte. Ma non può più tornare tutto come prima. Per tutto questo male non c'è medicina. Ma se vuoi, vorrei incontrarti per parlarti di me, per parlarti di noi. Ma non può più tornare tutto come prima. Per tutto questo male non c'è medicina. Ma se vuoi, vorrei incontrarti per parlarti di me, per parlarti di noi. Ed eravamo sempre in due, adesso ognuno è sulle sue. E a me così com'è non piace per niente. Ed eravamo sempre in due, mani su quei 1002. Ma ora che non ci sei non ci si diverte. Ed eravamo sempre in due, adesso ognuno è sulle sue. E a me così com'è non piace per niente. Ed eravamo sempre in due, mani su quei 1002. Ma ora che non ci sei non ci si diverte.